Super io, è bene sentirsi un po' re della folla che ha sete di te. Super io, portate rispetto per chi dispensa la verità.